per te, che mi viene a sentire. Anche se non sembra, questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23. Dispiace aver interrotto l'intervista che già avevate sentito al Ranking del Gato. Ricordiamo che Pirata e Radio è attiva H24. E di solito vanno le repliche, no? Ma stasera siamo in diretta 21-23. Cominciamo così. C'è una luce che riscalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente, suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Grande voce, una grande band, è stato da poco l'anniversario della sua scomparsa, 4 anni dopo aver inciso questo capolavoro non potevamo non cominciare che con gli Area e Demetrio Stratos. Adesso ci spostiamo su sonorità più consone, questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23, Pirata e Radio, è stato anche il compleanno. Un grandissimo artista, David Hines, voce degli Steel Pulse, un paio di tune anche per lui. E poi vi dico il menù. Un passetto per volta, no? Stepping out! Open sesame, here comes Rastaman. Abracadabra, catch me if you can. guess it rains, don't stay. Climb a ladder's ladder, hot a reggae hot. Open sesame, here comes Rastaman. Abacadabra, catch me if you can. Open sesame, here comes Rastaman. Ringraziamo tutti i massicci e le massicce all'ascolto per stasera, che purtroppo siamo in contemporanea con la partita della nazionale, che, come si dice, unisce tutti da nord a sud, ma per quanto mi riguarda forse ci unisce di più la musica reggae. E ancora tanti auguri a David Hines. Questo è Suncam, produzione Vertical Sound, che speriamo di vedere presto. Dopo questo andiamo con il primo ospite, special mixtape, Boots Taitamboa, Bergamo Reggae Crew. Bless up alla regia, che nonostante la partita comunque mi dice che si sente tutto e si sente bene. Ciao! Come detto, facendo ancora tante angurie a David Hines, voce degli Steel Pulse, andiamo con il primo ospite, Boots Taitamboa, Bergamo Reggae Crew, e vi ricordiamo dal 24 al 27 giugno la 12ª edizione del Bergamo Reggae Sunfest, dove troverete anche ovviamente il sottoscritto. Un po' di Sun Roots. Oio. Stato da Boots Taitamboa, Bergamo Reggae. Hold on, let's sing a safe song. We all gonna sing the same song. We all gonna sing the same song. Oh, whether you're a boy lover, or whether you're an orthodox, or whether you're a Binky Natty, or whether you're a 12 tribe of Israel, we all gonna sing the same song. We all gonna jam the same jam. We all gonna chop the same chop. Chop. Nothing ever you get it, we had a man. Nothing ever get it, we chant it out and tell them. Nothing ever get it, we. I know the battle seems so hard in Babylon. The conflict gets so wrong, things get really hard. Yes, Davide, all'ascolto, bless up yourself. Oh, Magico Boots, cioè sei proprio impegnato. What a bomba mixtape. Nemmeno un quinto. Ancora una ventina di minuti scarsi. Titan Boa Sound, Boots mixtape. Sweet and Bouncy. Tra un pochetto l'intervista e la presentazione a Giovanni Killacat per Brucia Ancora, Macro Beats Records. Port Royal tutti i mercoledì dalle 21 alle 23. You will see that he will fall. taking off at lightning speed, yeah. Take a seat and wait till I'm ready. I'm coming, so hold on steady, yeah. Big ships sailing on the ocean. We don't need no commotion. Big ships sailing on the ocean. Whoa, whoa. Say big ships sailing on the ocean. Big ships sailing on the ocean. Whoa, whoa, whoa. There's a time when the sea gets rough. The wind is blowing and the fishes keep moving. What are you doing, Mr. Man? Sit down, hold on tight, get ready, cause we're sailing. Big ships sailing on the ocean. We don't need no commotion. Big ships sailing on the ocean. Get ready, cause we're moving. Big ships sailing on the ocean. Better be prepared. guarda lì va bamba ye. E ricordiamo ancora dal 24 al 27 Bergamo Reggae Sunfest, il 24 dall'amico, dal boss Dimitri, Link Club con Vito War, Reggae University, e poi venerdì, sabato e domenica Edone, Bergamo Reggae torna a casa. Dalle 16 sempre attiva la dub area e ovviamente la musica dei vari selecta di Bergamo Reggae. Il venerdì sul palco Magnetics, il sabato Africa Unite e la domenica già dalla mattina è Roll Call e poi l'esibizione finale di Americana Exotica. Manca poco più di una settimana, ricordiamo a tutti il crowdfunding attivo su Produzioni dal Basso, trovate tutti i link sul profilo della Bergamo Reggae Crew e del Bergamo Reggae Sunfest. E per chi vuole venire a suonare, ultimi posti disponibili a Roll Call, no? Some honey, but you ain't no gospel man is really hard to find. I'm telling you, lady, I'm only human, not looking for impossibility. Ringraziamo Boots, Titan Boa, Bergamo Reggae Crew. L'appuntamento soprattutto con lui è per settimana prossima. Come sempre ci troveremo dietro la stessa console, Bergamo Reggae Family, 24-27 Bergamo Reggae Sunfest. Cominciamo di qua, intervista Giovanni Killacat, presentazione Bruscia ancora, Macro Beats Records. Partiamo da quello che ci piace di più, la musica, e poi passiamo alle domande, scopriremo anche gli inediti. Anche quando non lo so di, lei continua ad amarmi. Anche quando non ho più pensa, le dice che di me non può mai stare. Se... Partiamo da ripasso, no? Che soldi non possono comprare, qualcosa che i soldi sai cos'è. Ho qualcosa che i soldi non possono comprare, l'amore mio per lei è speciale. Quando noi stiamo insieme non ci manca niente, perché la voglia è sempre tanta. So che di amare me non è mai stanca, perché c'ho un tocco magico come palanca. Io le do tutto senza riparmio, non mi trattengo. Quando mi chiama di ma bisogno subito vado, lascio quello che stavo facendo e la raggiungo, pure se fosse in capo al mondo. Hey! Anche quando non ho soldi, lei continua ad amarmi. Anche quando non ho più pensa, lei dice che di me non può mai stare senza. Perché ho qualcosa che i soldi non possono comprare. Ho qualcosa che non posso comprare. L'amore mio per lei. Tu sei l'unica che amo, te lo dico, tu sei l'unica che voglio. Credimi, non ho dubbi, solamente tu sai come trattarmi, sì. Lascia che il nostro amore fluisca, che scorra senza ostacoli. Non far sì che il nostro orgoglio influisca sulle nostre menti instabili. Non potremmo stare insieme a una vita nel migliore modo. Uoi, non pensare mai che è finita, perché d'amore da darci ce n'è ancora tanto. Riempi monti di fiori, dai più luce ai colori. Quando ridi spargi gioia ovunque tu ti trovi. Tu sai cosa è il dolore, perciò sai cosa fare quando c'è qualcuno che sta male. Anche quando non ho soldi, lei continua ad amarmi. Anche quando non ho più pensa, le dice che di me non può mai stare senza. Ecco qualcosa che i soldi non possono comprare. Qualcosa che i soldi sai cos'è. Ho qualcosa che i soldi non possono comprare. L'amore mio per lei è speciale. Senza ma ti penso, il tuo sentimento è denso, la vita mia senza ti dava senso. Senta mormo. Quando noi stiamo insieme non ci manca niente, perché la voglia è sempre tanta. So che di amare me non è mai stanca, perché c'ho un tocco magico come palanca. Io le do tutto senza riparmio, non mi trattengo. Quando mi chiama di ma bisogno subito vado, lascio quello che stavo facendo e la raggiungo, pure se fosse in capo al mondo. Anche quando non ho soldi, però ci servivano i bomber col tocco magico come il palanca. Bello a tutti quelli che si guardano la partita, ma intanto hanno l'audio della radio. E bello a tutti quelli che invece lo ascolteranno in podcast in differita. Adesso cominciamo l'intervista, presentazione Bruscia ancora, Giovanni Killacat. Stile di Catanzaro, yamu mo, yamu mo, yamu mo. Il 4 giugno è uscito Bruscia ancora, il ritorno di Giovanni Killacat dopo 9 anni in studio per l'etichetta Macro Beats del compare fratello Macro Marco. E proprio coi fratellini andiamo a presentare questo nuovo lavoro che racchiude tutti i loro migliori pezzi, le loro migliori tune e 3 inediti che dopo andremo a scoprire. Ma la prima domanda è ovviamente: com'è stato tornare dopo tutti questi anni a lavorare insieme, seppure siete fratelli, e tornare a lavorare con Marco, con Macro Beats Studio, dopo almeno 9 anni? Guarda, erano anni che la gente mi chiedeva quando avremmo rifatto un pezzo insieme, io, lui e Macro. Io aspettavo che i tempi fossero maturi e devo dire la verità, era qualche anno che speravo che la cosa avvenisse il prima possibile, per cui insomma la felicità quando ho saputo che appunto era arrivato il momento, insomma il momento che aspettavo è stata grande, ma l'emozione è stata grandissima proprio il giorno dell'uscita. Devo dire che è stato veramente un momento per me molto molto significativo, perché con Macro abbiamo iniziato la nostra avventura e quindi insomma è stato un cerchio che si chiudeva. Ma tornare a lavorare insieme con Giovanni è stata una bella botta di energia. Avevamo bisogno di ritrovare quel fuoco che non si era mai spento, e di questo ne abbiamo avuto conferma assolutamente da parte del pubblico, che ha accolto da subito con grandissimo entusiasmo il nostro lavoro, il nostro ritorno. È stato bello constatare che, nonostante tutti questi anni, comunque il pubblico ci ha aspettato, il pubblico continua ad ascoltare le nostre robe, non si era mai dimenticato di noi, è una sensazione splendida. La prima domanda è direttamente per Marco Killagat. Dopo anni in cui hai approfondito magari altri generi musicali, in cui hai fatto sicuramente produzioni un po' lontane da quelle che sono le tue solite sonorità, com'è stato tornare alla musica reggae, a quella con cui ti abbiamo conosciuto? Ma io non ho mai lasciato il reggae, e il reggae non ha mai lasciato me, in fondo, anche se non sembra, però in questo mio percorso da solista che sto portando avanti da anni, ho cercato sempre di inserire delle influenze legate al percorso da cui provengo, legate al reggae, appunto. Quindi continuerò a farlo sempre di più in futuro, perché quella è la roba da cui provengo, è la roba da cui sono nato, la roba a cui sono fortemente legato. Quindi tutto questo ci sarà sempre nella mia musica, o dal punto di vista melodico, qualche sfumatura nel cantato, oppure qualche sfumatura nelle produzioni, qualcosa ci sarà sempre, perché io sono quella roba lì, anche. Quindi per me tornare a fare reggae in questo modo con Giovanni è stata assolutamente una cosa naturale, al 100%. Negli ultimi anni hai lavorato e collaborato con varie produzioni. Mi viene in mente come ultima il 90 Riddim prodotto da Chi Tu Senti, quindi anche da tutta la famiglia sostanzialmente. Quali sono i Riddim a cui sei più affezionato, che ti hanno dato più soddisfazione in questi anni nelle tue produzioni da solista? A parte ovviamente il dubplate su Labba Labba per me. Dai. Allora, in realtà negli ultimi anni avevo avuto una pausa di riflessione abbastanza lunga. Poi, perché gli ultimi pezzi erano stati 10 regole per Bizzarri e certi tizi per Ulisse. Poi nel 2020 ha segnato, diciamo, la mia ripresa artistica con la combo insieme ad Attila, prodotta da Ulisse per Chi Tu Senti, sul 90 Riddim. Ma la roba che più mi ha dato soddisfazione è quella di quest'anno, l'EP Come Rinascere, prodotta sempre dal maestro Ulisse, che non smetterò mai di ringraziare per la disponibilità, per la pazienza e per la bravura, perché ha fatto veramente un grandissimo lavoro. Tutto cambia è sicuramente il pezzo che mi rimarrà sempre nel cuore, perché rappresenta la summa, diciamo, del mio percorso umano e artistico degli ultimi anni. Tutto cambia insieme a Francesca Lupis. Quando ancora non facevamo le grafiche, abbiamo presentato il pezzo di Giovanna e Francesca Lupis. Tutto cambia, ma a questo punto non possiamo far altro che risentircelo. Questa è Tutto cambia. Giovanna, Francesca Lupis, Port Royal, Pirate Radio, tutti i mercoledì. Firebomb Babylon, you know. Niente muore, tutto si trasforma, io lo so. Quanto amore nell'ozono non lo scorderò. Siamo tutti legati da fili, buoni pure cattivi, un giorno rincontrerò. E non mi dire che non vedi più la luce all'alba, che ora quando stai al sole più non ti riscalda, che la felicità è una leggenda, e chi sorride sempre ingenuo e si accontenta. Sono sceso in fondo per vedere cosa c'era, e qui che ho conosciuto gente vera. Un giorno ho aperto il cuore d'una cameriera, mi ha servito un distillato di primavera. Ma salta in macchina dai, andiamo incontro al sole, prendiamo tutto quel che c'è, fino a che il giorno non muore. Insieme a me volerai, e correranno le ore, il cielo avrà il suo tramonto e ci lascerà senza parole. Senza parole. Basta un soffio di vita nella panda e vedi che tutto cambia. Lo so, non ci credevi, ma cambia. Faccio pensa e ce ne andiamo in Olanda, gli finiamo la ganja, poi andiamo a suonare bonghi in Uganda. Tutto è molto più semplice di quello che immaginavi, credimi, siamo tutti diavoli con le ali. Viaggio di nozze in Littorina, con te ho trasformato il mio veleno in medicina. Brucia ancora è un po' anche una raccolta, a parte i tre brani inediti. Quali sono le tune, quali sono i brani della vostra carriera insieme a cui siete più legati? Risponde prima Gioman e dopo lasciamo la parola a Marco Killagat. Guarda, per quanto riguarda Brucia ancora, è inutile che parlo dei pezzi vecchi, diciamo, di quelli che rappresentano una raccolta del nostro percorso artistico, perché sono pezzi ai quali sono legato in maniera assolutamente uguale. Probabilmente Musica Domina, beh, quella è stata la nostra vera e propria prima hit insieme a Macro Marco, quindi quello sicuramente. Però a parte, insomma, diciamo i nostri classici, per quanto riguarda i pezzi nuovi, anche se è difficile scegliere, perché sono pezzi che alla fine, dopo che li ho sentiti, veramente non sapevo più quale fosse la hit tra le tre, perché sono pezzi che sono usciti secondo me tutti bene allo stesso livello. Però Brucia ancora rappresenta forse qualcosa in più, perché è un continuum rispetto a Comusula, perché sono tutti e due pezzi legati alla nostra terra, alla Calabria, quindi diciamo che se proprio devo essere costretto a sceglierne uno, scelgo Brucia ancora. Ma io ti direi tutto l'album, però se proprio devo scegliere forse ti direi Comusula. Comusula è stata una vera e propria hit in Calabria, è stata cantata a squarciagola per anni dal pubblico, mi vengono in mente tutti i nostri live che abbiamo fatto, insomma il pubblico continua a cantarla tuttora, quindi è sicuramente un pezzo a cui sono fortemente legato. Però ti direi anche gli inediti che sono usciti, quindi sia Brucia Ancora che Purple Haze che Polvere di Stelle, perché rappresentano un po' un Giovanni Killagat 2.0, no? Una certa maturità che abbiamo acquisito in tutti questi anni e che abbiamo cercato di mettere dentro questi nuovi brani, quindi anche questi brani per noi sono una bella soddisfazione. Tra le varie tune che compongono questo disco ci andiamo a sentire prima le tune un po' più vecchie, più datate, e quindi questa è Musica e subito dopo Musica Domina, Joman e Killacat da Block Notes e adesso da Brucia Ancora, Macro Beats Records. Music, group, get together, well. Allora questa è una tingolza, no? Casi, no? Music is music, if you want to play music, then you can play music. If you have a people you want to play music with, then you can play music. Music. Mentre il sole piano muore, sento lento il bisogno di te. Metto via tutte le parole e mi affido a te, sì, mi affido a te. Mentre fuori è freddo e piove, sento che stai vicina a me. Sposto via tutte le persone e viaggio con te, sì, viaggio con te. Sì, io so che sei sempre vicina a me. La mente viaggia e tutto è possibile. Mi metti gioia e voglia di vivere. Niente di violenza più in questo mondo fragile. Tutto svanisce ma tu rimani sempre. A tante punte il sogno anche i problemi si perda. A conta vita in un po' che calura cerca. C'è stanco ma lotta ancora cave tante fino a chi mora lotterà. Mentre il sole piano muore, sento lento il bisogno di te. Metto via tutte le parole e mi affido a te. Sì, mi affido a te. Mentre fuori è freddo e piove, sento che stai vicina. Vita, musica, gioia, musica, amore. In ogni momento riempie il cuore delle persone. Quando stai male solo lei ti sa amare. Quando stai bene in armonia con il mondo intero lei ti fa stare. Scandisci la mia vita a ritmo lento. Mi sento perso quando so che non ci sei. Mi perdo tra le note del tuo mondo e canto la mia gioia assieme a lei. Assieme a lei. È una forza che va sola, senza il bisogno di alcuna parola. Musica, liberami da ogni paura. È un brivido che respira dentro, l'essenza della mia vita. Musica. Come sound siamo legati da anni di amicizia e un miliardo di serate insieme fatte a Joman e Killacat, specie quando uscivano questa tune e quella che segue tra pochi istanti. Avevamo detto combo musica e subito dopo musica domina. Giovanni Killacat, Brucia Ancora, questo è Port Royal, Pirate Radio, tutti i mercoledì 21 e 23. Hey, senta Bonomo! Come sempre 21 sicure, 23 ballasta per... Le sapa tutti massicci alla massiccia all'ascolto, dai e sapiscia, un bacione! Brucia quando musica domina, brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa, brucia quando l'energia domina. brucia quando stai ma se metti via. Fuoco brucia quando musica domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Si domina, come domina mo chi la via. Vieni nella danza con mia, per sentire la buona vibra che da su ti arriva. E la potenza della musica che in nessun modo ti limita. Ogni giorno sempre mi stuzzico, la voglia di ballare, cantare e porre la mia lica. Chiamo, vogliamo, bene che l'amo. L'alma aspettavo, bene che l'amo. Basta capetti, tutti a un spirito buono. Si può maneggi, già la te. Non brucia quando musica domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Poco brucia quando l'energia domina. Brucia quando stalci ma se metti via. Poco brucia quando musica domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Poco brucia quando l'energia domina. Si domina, senta l'unione. Hey! Ogni guagnona che sul canto senta. Ci piglia buono tanto e tutto quanto fomenta. Pur ogni femmina rimane contenta. Tutta che abbiamo tocco fatta su come palanca. Se sta musica ci è piaciuta, come l'avevo sentita subito dopo l'abbiamo amata. Poco brucia quando musica domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Poco brucia quando l'energia domina. Brucia quando stalci ma se metti via. Poco brucia quando musica domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Poco brucia quando l'energia domina. Quando c'è Giovanna se manchi la mia. Apara, apara, buca sua se impasse. Apara, toca scoppia e guarda non si serva. Pugniamo un fucile e poi vedi ma spari già. Due falsi pavoni se faccio che non mata battano. Medita, medita, medita, volimu soffra. Volimu solo gente libera. Libera dall'oppressione che hai, libera dall'oppressione che hai. Perché solo così dal male liberati di voi. Fuoco brucia quando musica domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Brucia quando stalci ma se metti via. Fuoco brucia quando musica domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Fuoco brucia quando musica domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Brucia quando stalci ma se metti via. Fuoco brucia quando musica domina. Brucia quando l'amore sale sopra ogni cosa. Fuoco brucia quando l'energia domina. Cadomina! Questa volta facciamo il cambio. Ci sono tre brani inediti, tra l'altro con vari producer. Come è nata la collaborazione con i vari producer? Come è andata, insomma, questa coproduzione dei vari riddim, degli inediti che poi andremo a sentire dopo questa domanda? Ma la collaborazione con i producer è stata una collaborazione tra amici, in fondo. Noi ci troviamo bene e abbiamo da sempre lavorato con persone con cui ci troviamo bene, innanzitutto a livello umano. Quindi penso a Ghisa, che è un carissimo amico, ma è un produttore con cui lavoro da anni. Ovviamente Macro Marco, con cui lavoriamo da tantissimo tempo. Ulisse, con Ulisse abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo fatto tantissimi live, tantissime robe in studio insieme. Guairi, ci conosciamo anche da tantissimo tempo. Quindi ti dico, si tratta veramente di amici, di persone che condividono anche i nostri gusti, il nostro modo di vedere la musica, quindi è stata una collaborazione naturale, anche questa è molto, molto stimolante. Vabbè, Macro e Ulisse sono fambili a tutti gli effetti, quindi con loro collaborare è veramente come bere un bicchiere d'acqua, cioè la cosa più semplice e più spontanea del mondo. L'altro producer che abbiamo inserito nel progetto è Guairi, che insomma sicuramente la cosa è stata una cosa che ci è venuta spontanea a tutti, sia perché l'afrobeat è un genere, anzi afrobeats è un genere che stiamo sentendo, che almeno io personalmente ascolto da un bel po' di anni, e lui devo dire che è uno dei maggiori esponenti al momento di questo genere in Italia. Dopo aver prodotto l'album di Silo, sempre per Macro Beats, era la scelta è stata proprio obbligata. Del resto Guairi è un amico da un sacco di anni, selecta di Frisco Sound, il sound di Roma, per cui è stato abbastanza semplice anche collaborare con lui. Insomma, lo ringrazio perché veramente ha fatto una bomba anche lui. E andiamo quindi a scoprire gli inediti di questo disco, Purple Haze, produzione Macro Marco e Ulisse. Dai Ulisse. We are gonna mash up your place. La danza mo è una nuvola, purple haze. La musica esplode negli occhi miei, yeah, yeah. Baciami nell'alba, scordati chi sei. Più fuoco again. La notte porta il sole sui passi miei. E ancora come quando amavo solo lei, solo lei, solo lei. Questo sound uccide ancora i tuoi DJ. Bombo clats, tu fuoco brucia come lava. Non dormiva, si riposava. Non c'è né obblighi, compiti, covid. Già si mudò ovunque a mezzo casi. Condomini così non ne può stutare. Ehi, hey, l'inferno lo taglio con una spada da una galassia lontana. Lo scudo protegge la mia fiamma quando il silenzio mi chiama. La mia penna e la melodia fanno foto del mio panorama. Lascio il vuoto e vieni con me. We are gonna mash up your place. La danza mo è una nuvola, purple haze. La musica esplode negli occhi miei, yeah, yeah. Baciami nell'alba, scordati chi sei. Più fuoco again. La notte porta il sole sui passi miei. E ancora come quando amavo solo lei, solo lei, solo lei. Questo sound uccide ancora i tuoi DJ. Spliff accese e volo dal Fofino al Nilo, riparto da Nolo, la Iubona. Gioco senza ruolo, ma non gioco solo, do gloria a sto suolo Maradona. Questo flow non lo compri, compa, c'ho manichilla di nuovo in città. Chi se reggae musica non ci su scusi, se la vivi scordata ripassala. In già sa danza bruciano storie di eroi e veri son boys. La stanza del tempo non chiude mai buoni, we are la King Roy. Il cielo è un disegno, coloralo e vola più in alto che puoi. Lascia tutto e vieni con noi, we are gonna mash up your place. La danza mo è una nuvola, purple haze. La musica esplode negli occhi miei, yeah, yeah. Baciami nell'alba, scordati chi sei. Più fuoco again. La notte porta il sole sui passi miei. E ancora come quando amavo solo lei, solo lei, solo lei. Questo sound uccide ancora i tuoi DJ. Sempre alla scoperta degli inediti del disco Brucia ancora, questa è Polvere di Stelle, ancora una produzione di Ulisse. È un big up a tutti gli amici di Porto D'Anzio, di Nettuno, dategli forte, ci vediamo domenica all'Acustica, al Bottaccio e poi per tutta l'estate insieme al KDB Sound, io no, a Billa e a tutti gli amici. Questa è Polvere di Stelle, Ulisse ai controlli. Strade che non conosco, soffiano giorni, cambiano il mondo. Prova a scrollarti tutto di dosso, sei polvere di stelle, libera nel cosmo. E sei in un secondo, crollano i sogni, toccano il fondo. Prova a scrollarti tutto di dosso, sei polvere di stelle. Col KDB Sound il passato è soltanto un condizionamento. Ci siamo solo io e te nel casino che c'è. Ma ogni volta mi dici che è meglio se rallento. Le nostre pause fette di cross d'estate. Sei bella se ti fai rossa nelle videochiamate. L'ultima volta non lo faccio più, ma poi ti guardo e rinasco nei tuoi occhi blu, yeah. Strade che non conosco, soffiano giorni, cambiano il mondo. Prova a scrollarti tutto di dosso, sei polvere di stelle, libera nel cosmo. E sei in un secondo, crollano i sogni, toccano il fondo. Prova a scrollarti tutto di dosso, sei polvere di stelle. Sound ci vedremo insieme a Pugliese per tutta la stagione estiva che faranno nella loro terra originale. Radiant Sound, Big Respect. E la distanza è troppo, ci allontaniamo per poi. Comunque ci vediamo domenica all'acustica, anzi, scusate, avevo fatto un passo indietro nel tempo. E se l'attesa aumenti il desiderio, sono fatto. In questo viaggio non può rimanere solo uno scatto, yeah, yeah. Strade che non conosco, soffiano giorni, cambiano il mondo. Prova a scrollarti tutto di dosso, sei polvere di stelle, libera nel cosmo. E sei in un secondo, crollano i sogni, toccano il fondo. Prova a scrollarti tutto di dosso, sei polvere di stelle, libera nel cosmo. E questa è la title track, come dicono quelli bravi, Brucia Ancora, produzione di Guirie e Ghisa, sempre a proposito dei fratelli. Brucia Ancora, terzo inedito, estratto dall'album omonimo Giovane Killagat, produzione Macro Beats. Sto casino mi imbottiglia via dell'ambaradam. Cerco un po' di mare sul tuo Instagram. Cerco un po' di mare sul tuo Instagram. Yo, ti raggiungo in un minuto scivolando sul velluto. Chiudo gli occhi, resto muto. Non mi serve alcun aiuto. Quello che voglio è già qua. E dentro me so che non se ne andrà. Tu trascinami sulle tue onde Vinaville. Fra i miei pensieri schivi, se mi distraggo inchiodami. Passano gli anni, tu mi accompagni. Sei un'idea felice, così indifesa e pura, che quasi mi ferisce. Brucio ancora come su là, mi perdo fra le strade del mondo. Sei il centro del mio girotondo. Tu sei la religione più pura, il mio segreto profondo. Mi aspetterai se ritorno. We'll be right back. l'ultimo anno è stato fatto di serata a distanza, immagino anche le prove e tutto quello che vuol dire anche preparare questo disco sia stato fatto un po' più sul virtuale che sul personale. Come l'avete affrontato? Come l'avete superato? All'inizio quando è nato il progetto eravamo in pieno lockdown, quindi all'inizio è stato veramente un casino perché anche solo vederci io e Killacat per buttare giù qualcosa, iniziare a fare qualche provino era condizionato appunto dal lockdown, nonostante fossimo tutti e due a Milano. Quindi all'inizio è stato veramente complicato, però poi paradossalmente devo dire che proprio la pandemia e il lockdown ci ha permesso di concentrarci maggiormente sulla musica. Sarà stata anche, insomma, tutta la sofferenza che abbiamo vissuto e che abbiamo sentito e che ci ha accomunato veramente da nord a sud, ha fatto sì che riuscissimo a concentrarci veramente su quello che poteva dare gioia. Comunque una via d'uscita, ecco, qualcosa, un modo per evadere sia per noi stessi che anche per gli altri. Infatti io ritengo quest'album che è uscito come un regalo veramente a tutti quelli che amano la nostra musica, ma a tutti quelli che hanno avuto modo di ascoltarla. Beh, quest'ultimo anno è stato sicuramente un anno molto difficile per tutti, specie per chi fa questo di mestiere. Io personalmente ho cercato di concentrare tutte le energie che avevo, tutta la mia ispirazione, sui progetti, su questo progetto, e su altri progetti su cui sto lavorando e che usciranno nel futuro. Quindi mi sono fermato, ma solo fisicamente, perché la mia ispirazione ha continuato ad andare avanti, le mie idee hanno continuato a macinare, quindi in fondo, da un punto di vista creativo, quel periodo, diciamo, della quarantena, del Covid in generale, sicuramente è stato molto importante per me e anche stimolante sotto certi aspetti. Non so se siete già ripartiti con serate, con situazioni, a parte ovviamente il disco che ricordiamo è uscito il 4 giugno su tutte le piattaforme, Bruscia ancora, Giovanni e Killacat. Ma come avete affrontato, come state riaffrontando questa ripartenza, se già l'avete cominciata a rivivere? Ma questo per me è un momento di grande fiducia verso il futuro, quindi sicuramente ora sono fiducioso e sono certo che ripartiremo tutti a bomba. In questo momento sicuramente quello che ci interessa è concentrarci sulla promozione del progetto e vedremo sicuramente anche di fare delle serate, dei live quest'estate, ancora non si sa in quale modalità, non è del tutto chiaro, ma sicuramente le faremo. E quindi questo, e poi la musica continua, andiamo avanti, usciranno i nuovi progetti, le nuove robe, insomma, non ci fermiamo. Sicuramente non sarà facile, riuscire a trovare date, riuscire a capire come farle, perché diciamo i locali ancora adesso sono incerti sulla possibilità di riprendere, su come riprendere, se fare ingressi limitati a pagamento, se ci vogliono le sedie o meno, insomma, la situazione è ancora abbastanza confusa, devo dire. Io spero veramente che si possa riuscire a riunire più gente possibile, perché veramente sarebbe un peccato suonare davanti solo a, per esempio, a 50 persone, insomma. Per cui io spero che quest'estate, nonostante i rischi che comunque ancora ci sono, spero che si riesca a creare una situazione in cui ci sia, mantenendo certo le dovute tutele, ecco, spero che ci sia la possibilità di vedere più facce possibili, perché quello è il motivo per cui noi facciamo musica, quello di riuscire a interfacciarci con più gente possibile. E non potevamo far sentire anche La Cura featuring Soul Sound System, un Joman, Killacat e Soul Sound System, tutti insieme, La Cura, lo trovate su Bruscia Ancora. Ringraziamo Joman e Killacat per la disponibilità, per l'intervista, e ringraziamo Nene anche per il contatto e lo sbattimento per tutto quanto. Questa è La Cura, Joman, Killacat, Soul Sound System, e poi andiamo avanti, Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, Pirata Radio. Chi se o fuoco originale do sud? A tutta la gente che si ama, yo! A tutte le bestie della Calabria e dell'Usarento, di tutta Italia, Giovanni chi la chiat, sud son system, sono noi acquai. Bella come il sole, scaldi l'anima, tu sei la cura, i mari miei, non sai che fortuna averti incontrato, ora che sei mia non ti lascerò mai. Bella così come sei, in tutto ciò che fai, assorta nei tuoi pensieri, nei desideri di ieri, muffo come un oceano, come un toro dei narici. Perché mi piace a chi non chi fai e chi dici. Dico sempre sì, accetto tutti i tuoi capricci. Perché mi piace quando mi guidi come una bici. Quando sbrocchetti cuca si rovina mia. Con tu una fisseria tu mi doni benefici. Mi piace il rispetto che porti ai tuoi amici. Quando dici che le altre sono tutte meretrici. Tu che sopporti e soffri anche se lo nascondi, ma sai che questo è il prezzo della felicità. Tu che mi tiri fuori da quel conosci i difetti, ma accetti la mia personalità bella. Perché sei come sei, con quel sorriso sul tuo viso, ti prego non cancellarlo mai. Lo sai, la vita cambierà, qualcosa perderai, ma i tuoi sogni non tradirli mai. Bella come il sole, scaldi l'anima, tu sei la cura, i mali miei. Non sai che fortuna averti incontrato, ora che sei mia non ti lascerò mai. Bella così come sei, in tutto ciò che fai, assorta nei tuoi pensieri, nei desideri di ieri, ma domani. Qui giù cadi e gei, ormai non tengo a un c'è di pensieri miei. Non riesco come immagino un privato degli sentimenti tuoi. Sempre pronto con te da quel duca way. Non ne posso fare a meno, con te sta sempre bene, sono l'unica cosa che ne rende sereno. L'amore che c'è fra noi due non può finire, come un fuoco in eterno a bruciare. Qui pensa amore, fanne pensa amore, e qui giù caulimo e qui giù cadisce l'ucore. Qui pensa amore, fanne pensa amore, e qui giù caulimo e qui giù cadisce l'ucore. Cubesa amore, fate pesa amore, e qui stuca ulimo e tu giuca dice un cuore. Cubesa amore, fate pesa amore, beggia come un lusule sentiti. Mi piace tutta tutta per come si fatta fatta, per ogni cosa che ti tacca del cuore deve essere ritta ritta. Mi dai la forza giusta, la vita puttia mi gusta, ogni emozione mi dice che non te posso dire basta. Tiesi la gioia mia, la bella mia, senti l'armonia che il cuore mio cerca cuccioa. Tiesi la bella mia, la gioia mia, senti tutta tutta fatta fatta come mia. Non c'è cosa più bella di te, senza te sogno in agonia, io ti amo. Ringraziamo ancora Boots Titan Boa per il mixtape di inizio puntata, e ovviamente Joman e Killacat brucia ancora su tutte le piattaforme Macro Beats Records. Cominciamo con la selezione Fire Upon Babylon, Hilario, Pondi Control, Tauli, Pondi Mike. Yeah. This is how than she, but she a warrior. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì 21-23 a Ilario, Pondi Control, Tauli, Pondi Mike, Fire Upon Babylon in session, Born a Rebel, Lion di Bizarre Sound. Cause I don't want no one to steal my energy. I'm not a money man, love is my currency. I prefer plant a seed and wait patiently. If this world has no sense of decency, I won't follow trend, I move differently. Cause I was born a rebel. Music me use and put food from my table. Say again, I was born a rebel. Me spread your love around and conquer evil. Say again, I was born a rebel. When me walk past, we keep that them a tremble. Oh, oh, I was born a rebel. I was born a rebel. Man of my own, rebel in the soul. You do not like, I just leave I alone. Come real to the bone, firm as a stone. I never run from my own combat zone. Must be dead, tough like a leather. Fight every day, still I love where me treasure. Me stay the same through the good and bad weather. Oh, oh, oh. Just because I was born a rebel. Music me use and put food on my table. Say again, I was born a rebel. Me spread the love around and conquer evil. Say again, I was born a rebel. When me walk past, we keep that them a tremble. Oh, oh. I was born a rebel. I was born a just like a soldier on the battlefield at war with the whole world now. This is how I feel, just like a warrior. Yeah, Kiko Baba. Sometimes I feel too boogie to a few 45. Yeah, yeah. Sometimes I feel too boogie too. make sure that I don't get there late. Cause we gonna hit up a big sound system for a boogie, yeah. Following the rock steady sound, yeah. As we approach a dancing crowd, she takes my hand, and then she spins around, spins around, spins around, spins around, well, I. And that's what it's all about up in the sunny London town. A volte Kiko Boone, produzione di Pupa Albo. With my queen beside me, watching all my struggles and my troubles pass by me. The king that's on my mind, every day is like a Friday. Give thanks for everything the most I provide me. Got to stay grounded even when I got to fly away. Got some heavy plans, so my stress kinda lightweight. The world is a cycle, everything I vibrate. Conscious evolution from mineral to primate is what they're on my mind when I'm cruising through. Reading a book, swallow the Lubik's too, yeah. Solving my puzzles like a Rubik's Cube. Till that place of divinity I'm moving to. And I'm moving through like a soldier. Any obstacles in my way, I push them over. Never gonna found up like a page in my book of life. It's just another episode of Sarah Sing. Salutare tutti gli ascoltatori di Fort Royal e Fire Upon Babylon. Restate sintonizzati, seguite programmi come questo, supportate la reggae music. Yes, I! Buon senso! Wicked! That I've been giving, it's a mission to reach the people's hearts. Spread joy and love to the corners of the world. Spread the message, cause the message must be heard. Tell every boy and girl, every wife and man, we're bringing love across the land. So jump on board and please hold on. The road is rocky and the road is long. We all keep singing the same old song. The story is sad, but the story must go on. So please join in and check my mind. Read between the lines and see what's behind it all. Ladies and gentlemen, men and girls, supportate Port Royal Pirate Radio. Supportatela, scaricate, ascoltate, perché ci sarà da divertirsi. Click, click, click, click, click. Riding on a high and windy day. Sure. And we were riding so high. Riding make them know this my troubles away. No, no, no. when the sun goes down and the moon comes out. That's when I find a melody and when the tune comes out. I stay true, no doubt, to my journey and the path. Without the knowledge of the art, then I would certainly be lost. Emerging from the dark, it's the brightest light. The uprising of the youths with the righteous eyes. We keep riding high till we reach our destination. Even eyes is high in each and every situation now. Please join in and check my mind. Read between the lines and see what's behind it all. 'Cause we need to tear down the walls. Riding on a high and windy day, deep in the mind of me. Wow, wow, wow, wow, wow. Goodab, da goodab, yeah. Over the hills and valley, man, I walk with it. I'm working for the people. And every corner them a aspiring. Now where is the herbalist? Well, I'm in the city where the living is so sticky. Only the ganja weed can make them have a little pity. Them happy but them chalice right down to the gritty. And chant for the system, it not pretty. Good herbs, good herbs. Herbalist planted. Good herbs, good herbs. And them no one no fence bush. Even a sour diesel blueberry or the bush. Or if them want a little purple, them no one no tablet and them no one no capsule. No need no caffeine, no one no Red Bull. Strictly the idler pass me a handful. But the herbalist them ever thankful. Hey, the good herbs, the good herbs. Mr. Cop, cool down. when I say acid, cool down your temper, Mr. Cop, ooh-wee, cool down. Ziggading, ziggading, ziggading, ziggading, ziggading, ziggading, another roadblock. What a whole heap of cop, and I bet you anything I'm gonna get stopped. Another roadblock. What a whole heap of cop, and I bet you anything me I'm gonna get stopped. Hey, Mr. Cop, tell me why you stopped me. I wasn't driving me car badly. You couldn't want lock me up. Me the good sense, cause you punish yourself when you're off duty. So cool down your temper, Mr. Cop, ooh-wee. Down. Show me a dread, I mean a rental. Hear me when I say, cool down your temper, Mr. Cop, ooh-wee, cool down. Lord, no. Gregory Isaac, talk to the cop. BC and Mark hit my row in a bone. Oh, Mr. Cop. What don't concern you, please leave it alone. Il buon vecchio Gregorio alla voce, Hilarious Selecta, cavoli con di Mike, se fai a Pom Babylon. Ricordiamo gli appuntamenti domani insieme a un'altra trasmissione di cui abbiamo fatto parte per anni, More Fire Reggae Radio Show, tutti i martedì o a breve si tornerà tutti i martedì, 87.9 Radio Onda Rossa. Un segnale che disturba, you know. Soul's Family. A proposito dei Family, venerdì Sally Brown, Rude Pub. Questo venerdì sarà solo il primo di una lunga serie di venerdì che ci vedranno ai controlli dello storico Rude Pub della capitale. Bella Beppe, bella Betta, bella Peppe, scusate, Betta, Mariano, Cristina e a tutti quanti. Per non farsi mancare niente, sabato Coconut Reggae Party, Coconut Cocktail Bar, Parco delle Sabine, e domenica, come detto, se torna Anzio. Se è vero che una danzola al giorno non basta, da domani ci avete solo che l'imbarazzo da scelta. Supporto Port Royal Pirate Radio. Let's go! One day the table will turn and you'll be wearing the frown. Remember that. So you think they could hold us down, pushing us around, hey. But one day the table will turn. Now you'll be wearing the frown. Remember that. Live up now. Bella a tutti, sono Tuna, miscela rara alla famiglia, big up a Port Royal, Pirata e Radio, Firepon Babylon, big up ai miei fratelli grossissimi e bellissimi. Big up! Ok, va bene, andiamo. The doctrine about the flood. Yes, they are too smart. That was just to keep us slaves in Vermont. Slave if you don't. Abbiamo già detto che domani ci trovate allo Zoo Bar. il 1° luglio ci trovate anche quel losco figuro che ci ha fatto sto regalo, questo spiccetto Tuna miscela rara. Can never see. Oh yeah. Non so quanto si sia sentito l'inizio, quindi okay, lo rimandiamo. Otello, faccio questa cosa, però posa la pistola. Ok, bravo. Posala lì, ok, la faccio. Ok, la faccio. Ci sono. Bella a tutti, sono Tuna, miscela rara alla famiglia, big up a Port Royal, Piratai Radio, Firepom Babylon, big up ai miei fratelli grossissimi e bellissimi. Big up! Ok, va bene. Tortoise of Praia, to suit their desire. Which if we follow, we go deeper in fire, fire, fire. Lord is thy shepherd, and I shall not want. Still they take it all, and I in society. Oh yeah, yeah, yeah. Make believe is no reality. And see. E si chiedono Peace in Jamaica, figura da Roma. E a tal proposito Tuna ci ha mandato anche una precisazione. Bella a tutti, sono Tuna, miscela rara la famiglia. Per colpa di un cavillo legale sono qui a dirvi di ascoltare Port Royal, Piratai Radio, Firebomb Babylon, i miei fratellini. Big up, bless! Che se no prima sembrava che avessi minacciato davvero che la pistola. Unity is strength. Uniti vinciamo, divisi cadiamo. Grazie a Tuna, miscela rara. Ci vediamo il 1° luglio allo Zobar. Ovviamente ci vediamo anche domani allo Zobar. E giovedì prossimo allo Zobar. Insieme a Natti G. Gli diamo dei spoiler stasera, no? We'll be right back. Song fatty boom, gudung gudung gudung gudung fatty boom. Long fi see your dress up in a costume. Long fi see your beard in a deep bath. No, but a long fi smell your sweet perfume. No, bang gudung gudung gudung gudung fatty boom. Bang bang bang bang bang bang fatty boom. What a sexy and them she sexy and them she boom. Better looking and them she better than gum. Dong dong dong dong dong dong dong fatty boom. Hey! Bong bong bong bong bong she this a boom. Oh it's a star. Come say ya so miss a Marty ya so sir. Nothing never sweet like this ya sir. Go de miss a Marty go de sir. Can nothing never sweet like this ya sir. She this a boom. Bong bong bong bong bong she this a boom. Bong bong bong bong bong she this a boom. Bang bang bang bang, she this a boom. Bang bang bang bang bang, come in, Mali Melido, Mali Melido. She a wheel barrow through street broad and narrow. Mali Melido, Mali Melido. She a wheel barrow through street broad and narrow. She a boom. Bang bang bang bang bang, she a boom. Boom. Sexy and them she boom. Boom. But a nice and them she boom. Boom. Mix me down, mix me down, operator, mix me down. Mix me down, mix me down to the ground. Mix me down, Pupa Philip, mix me down. Mix me down, mix me down, till me touch the ground. Inna the dance hall, this a skank all night. Now broke the fight. Inna the dance hall, this a skank all night. Just a do it right. So mix me down, operator, mix me down. Mix me down till me really touch the ground. Mix me down, operator, mix me down. Mix me down till me really touch the ground. Ladies come mix me up, they jump and twist. Lead up, lead the crowd at tear up the gate. Play drum and bass, me up to wind up me waist. Play calypso, me this a dance for me too. Mix me down, operator, mix me down. Mix me down, mix me down till me touch the ground. Mix me down, operator, mix me down. Mix me down in a style and fashion. Whoa, oh, whoa, oh, listen. Here comes some bad boy, a bust big chat, but me never get jumpy. Here comes some bad boy, a fire pure shot, but me never get bummy. Here comes the cops, fast on the spot, but me never get jumpy. Here comes some cops, a fire pure shot, but me never get dreadlocks get living at tenement, yeah. Dreadlocks get living at tenement, yeah. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy, wah. Dreadlocks get living at tenement, yeah. Dreadlocks get living at tenement, yeah. Too much su-su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too my sister, too much watchy-watchy wrong. Dreadlocks can't live in privacy. Anything you do, will near God see. Too much watchy-watchy-watchy, too much sister, too much watchy-watchy-watchy, too much sister. Dreadlocks can't smoke in pipe in peace. Too much informers and too much bees. Too much watchy watchy watchy. Too much too much watchy watchy watchy. Too much dreadlocks can live in a tenement yard. Dreadlocks can live in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Skip skip ba oh oh oh oh. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Too much su-su-su-su-su-su. Too much watchy-watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su-su. Too much watchy-watchy-watchy. Dreadlocks can't penetrate the rain. Then you swim way one time. We are town to get together round. And you may we go round. See my little rock, see you right there. It's a drill of life. Questo è Port Royal, tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, Pirata E, Web Radio. DJ Smash, Pondi Control, Tavoli, Pondi Mike, Nati, Don't Fear, Daddy Euro. Come your rocks, so rocks, so we down. Your rocks on your downtown. Keep on rocking. Come sempre, 21 sicuro, 23, balla a sapere. Talking about, yeah. Come on, Natty Dread, you better hold up your head. Yeah, yeah. Come on, Natty Congo Dread, you better hold up your head. Don't you check Natty Dread like the way you check other people. For Natty is right to lie. Bingy, bingy, bongo, aye. Yeah. Come on, Natty Dread, you better hold up your head. Move ya, come on, Natty Congo Dread, you better hold up your head. Yeah, yeah, chiwumba wumbe, chiwumba wa. Man, I look it. Long time out of grass, they I look it. Come back, woman, hear the DJs, them a mash it. Butter flash me, come me, flash me, come for flash it. I mash me, come for mash me, come for mash it. Ram me, come for ram me, come for ram me. I jam me, come me, jam me, come for jam me. Say long time, them no hear me in the dance. But I was even giving other singers a chance. Long time me not chuck it in the arms, rubbing with a thing till she start to roll my arms. But a flash me come, me flash me come for flash it. Whoa, I mash me come for mash me come for mash it. Ram me come for ram me come for ram me. I jam me come for jam me come for jam me. Whoa. Little McLean. Yet the thought of losing you's been hanging. Port Royal, Piratei Radio. Fai a Pombabilo in session tutti i mercoledì 21-23. Far more frequently you're wearing perfume. With you say no special place to go. And when I ask you if you're coming back. You don't know, never know. Well, I'm a man of many wishes. I hope my premonition misses what I really feel. My eyes won't let me hide, 'cause they always start to this time could mean goodbye. People get ready, let's do rock steady. People get ready, let's do rock steady. Do rock steady, do rock steady. When you're feeling blue, you know just what to do. When you feel what to do. Do rock steady, Il maestro Laude Lightkin, firma campeggia sui muri del Sally Brown, e ci si vede venerdì. Your comeback. Then we'll dance. dance, dance. Torneremo a vedere le luci della notte dalle 19 nel giardino, nelle sale fino a boh. Ti dico che la gente non capisce cosa vuole dire dare veramente anima e cuore per la musica. Sì, per i massicci, per la mia messi. Va così, mo rapido e intrepido. Toweli col microfono subito. Quando scaldano il pubblico, fagli pulito subito, subito, subito. Nuova moda. Boga, boga, roba, doba, rock steady, boga, boga, rock it, clap it, please don't stop it, move it, whine it, whine it, really be fire upon party, fire upon Babylon. Questa dancehall music all night long, fire upon Babylon, yeah. Ancora luci nella notte mi scaldano questa dancehall music all night long, fire upon Babylon. Smash DJ, metti il disco in play, ti prego, hush, come again. Quante volte lo risentirei? Balla signorina che io ci metto la rima e la ribassa la puntina che staccia una mena mena mena i timpani. Per le pischelle, per i pischelli. E va così, mo rapido e intrepido. Toweli col microfono subito. Quando scaldano il pubblico, fagli pulito subito, subito, subito. Nuova moda. Boga, boga, roba, doba, rock steady, boga, rock it, clap it, please don't stop it, move it, whine it, whine it, ready for fire pump party, fire pump Babylon. E questa era l'ultima tune di DJ Smash e la penultima di questa sera. Era Gamba Delenk speciale rock steady, boga, fire pump Babylon. Restate sintonizzate e seguiteci perché ne vedrete davvero delle belle. La prossima è l'ultima tune. Non posso fare a meno di dedicare tutta la puntata a un amico che è scomparso un paio d'anni fa, anzi due anni fa. Questa è per te, Ciccio, che il Summer Rhythm ti piaceva da... Ultima tune. Questa era Port Royal, Fire Bomb Babylon in Session, tutti i mercoledì 21-23, Pirata e Radio. Non me ne vergogno, per me è fondamentale, per questo mi ci impegno. Lo stile che mi piace ogni giorno io diffondo. E allora adesso dimmi se ti torna al conto, se forse ancora in grado di reggere il confronto. Vivo la mia vita senza nessun tornaconto. A terra coi due soldi io decollo col mio sogno. Niente religione, nemmeno politica, niente cristianesimo, islam ne resta man. Fuori da me stesso niente e nessuno potrà rendere ai miei sogni quella vera libertà. Sogno ad occhi aperti perché non me so spiegare, quando vedo il sole mentre che sta tramontando, quella sensazione che mi invade che sarà. Senso che mi piace perché a me mi fa sognare. Per t'assai dura sarà sfruttare le ingiustizie di sta merda di realtà. Perché se sto sogno tu non lo potrai fermare, non sarà un brevetto da comprare e poi bloccare. Sogno di cambiare sto paese e sta città, e per farlo io non userò la Mastercard. Lasciami sto sogno, io ce n'ho bisogno, e dire che me serve non me ne vergogno. Per me è fondamentale, per questo me ci impegno. Lo stile che mi piace ogni giorno io diffondo. E allora adesso dimmi se ti torna al conto, se sei ancora in grado di reggere il confronto. Vivo la mia vita senza nessun tornaconto. A terra col due soldi io decollo col mio sogno. Senza sogni che sarei, senza desideri miei, non esiste una realtà che sogni non ha. Senza sogni che sarei, senza sogni che sarei, senza tutti i sogni miei, non esiste una realtà. Non esiste una bella a tutti, sono Tuna, miscela rara alla famiglia, big up a Port Royal, Piratai Radio, Fire Upon Babylon, big up ai miei fratelli grossissimi e bellissimi, big up, ok, va bene, posso andare?